e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno, buon venerdì, benvenuti a tutti. Intanto vi anticipo subito che oggi sono completamente sola, per cui fatemi compagnia voi, se volete. Cominciate subito ad immaginare il tema sul quale vorrete intervenire questa mattina. Fra un po' vi faccio l'elenco della spesa, di tutte le cose belle di cui ci occuperemo in questa puntata. 800 24 00 24 per sostituire, se ce la farete, Nicoletta, che questa mattina non è al timone con me di Cuore e Denari. Questa settimana la vogliamo chiudere con un pensiero ad una categoria molto importante di lavoratori, perché anche di lavoro parleremo nel corso della trasmissione. Una categoria di lavoratori che verosimilmente non può ascoltarci in diretta, ma che tutti abbiamo nel cuore. Questa è stata, se vi fosse sfuggita questa notizia, la settimana dell'insegnante, promossa dall'associazione Masterprof, che ha invitato gli italiani a celebrare una delle professioni più belle, importanti ed impegnative del mondo, un modo per dire grazie a quella o a quell'insegnante speciale che certamente ognuno di noi ha avuto la fortuna di incontrare sul proprio cammino e che ha segnato anche il nostro essere, scrivono gli organizzatori, che peraltro hanno lanciato anche, naturalmente movimentando i social network, un hashtag. Ringrazia un docente che vi proponiamo anche noi stamattina, usatelo per ringraziare e salutare il professore che vi è rimasto nel cuore. Poi magari un giorno questo sondaggio lo facciamo invece sui giornalisti che vi sono nel cuore. A parte questo, rifaccio l'appello: 800 24 00 24 se volete chiamarci, 349 238 6666 il numero che potete utilizzare per gli sms, inviandoceli anche attraverso WhatsApp. Diteci se siete tutti presenti, commentate gli approfondimenti, i temi di oggi, che come sempre sono tantissimi, e noi li apriamo con la nostra consueta rassegna stampa. Apriamo la rassegna stampa con le notizie di cuore. Oggi parte il Giro d'Italia, che con i suoi 3.463 chilometri ci terrà compagnia fino al 29 maggio. Due ruote non solo per addetti ai lavori, ma anche per semplici appassionati. In Italia, lo sapete perché ne parliamo anche spesso, sono sempre di più le persone che salgono in sella e pedalano. Un investimento che ci fa guadagnare molto in salute. Secondo le ultime ricerche, infatti, la bicicletta ci renderebbe più felici, perché secondo gli studiosi pedalare abbassa il livello di stress. Ma le buone notizie non finiscono qui, perché andare in bici ci aiuta a tenere sotto controllo il peso, ed è questo vero soprattutto, a quanto pare, secondo quanto è stato dimostrato da questi studi, è vero soprattutto nelle donne. Un'ora di bicicletta, secondo una ricerca pubblicata sull'Internal Medicine, fa bruciare fino a 500 calorie. Canta che ti passa è un detto popolare che anche la scienza avrebbe confermato. Secondo alcune ricerche, cantare, soprattutto in coro, potenzia il sistema immunitario, riducendo notevolmente lo stress e migliorando l'umore. Nell'attesa intanto di trovare il coro giusto che fa per voi, potete potenziare il vostro sistema immunitario tenendo a mente delle semplici regole. Queste me le ha lasciate Nicoletta, per cui mi raccomando, prendete nota. Dormire bene, le classiche 8 ore di sonno, fare un regolare esercizio fisico, come ad esempio i famosi 10.000 passi giornalieri, seguire un'alimentazione sana ed equilibrata. Fra gli alimenti che sono stati indicati come capaci di modulare in modo positivo il sistema immunitario ci sono l'intramontabile cioccolato fondente, i probiotici, che hanno anche un effetto antinfiammatorio e di cui abbiamo recentemente parlato anche noi. Sul nostro sito trovate tutti i consigli del professor Morelli. Ci sono buone notizie sulla ricerca relativa al tumore ovarico, che ogni anno colpisce, pensate, 250.000 donne. Sono oltre 100 le associazioni di pazienti che partecipano alla quarta giornata sul tumore ovarico, che si celebra in tutto il mondo domenica. Un'occasione per parlare dei progressi della ricerca, ma anche di sintomi, campanelli d'allarme che è bene non sottovalutare, specialmente se è presente una familiarità. Andate sul nostro sito e come sempre trovate un approfondimento anche su questo tema. Andiamo alle notizie invece di carattere economico-finanziario, cominciando come sempre perlustrando un po' la giornata di borsa, che è prevalentemente negativa in Europa. Parigi e Londra perdono mezzo punto, Francoforte un po' meno, meno 0,28, Milano ancora meno, meno 0,18%. Oggi rispolveriamo, stanno andando tutti abbastanza bene i titoli del settore bancario, guidati al rialzo da Monte dei Paschi, più 4,82%. Ieri il gruppo ha comunicato la sua trimestrale e per certi target Il gruppo bancario ha sorpreso e ha battuto le attese degli analisti, soprattutto per quello che riguarda gli utili. E poi c'è tutta la notizia relativa al pacchetto delle sofferenze che il gruppo intende smaltire. Vorrebbe appunto velocizzare le operazioni, magari conferendo ad un veicolo di carattere internazionale, ad un soggetto internazionale, questo peso. Il titolo guadagna il 4,82%, porta con sé anche UBI Banca più 3,5 punti, Banco Popolare più 3, Pop Emilia Romagna più 2, Unicredit più 1,84%. Ricordo, ne parleremo nel pomeriggio, che oggi il dato più importante che movimenterà la seduta sui mercati finanziari, certamente quello che viene diffuso nel primo pomeriggio, è la disoccupazione americana di aprile. Di banche, di una grande banca internazionale che è al centro in queste ore di un'inchiesta avviata dalla Procura di Trani, parleremo fra qualche istante. Prima le altre notizie economiche: saranno la geografia economica e i luoghi della crescita l'argomento principale del quale si discuterà all'11ª edizione del Festival dell'Economia di Trento dal 2 al 5 giugno. Ci sarà come sempre anche quest'anno Radio 24, l'appuntamento al quale partecipano, come noto, personalità politiche, istituzionali, ricercatori, giornalisti da ogni parte del mondo. È stato presentato ieri a Roma dal direttore scientifico Tito Boeri, che come sapete è anche presidente dell'INPS. La geografia economica nel mondo, ha detto Boeri, segnala una crescente concentrazione della crescita in relativamente poche grandi città in grado di attrarre capitale umano e stimolare l'innovazione. Fra le varie personalità politiche che parteciperanno, ricordiamo, ci saranno anche il ministro del lavoro Poletti e il ministro dell'economia Padoan. Un tema di grande interesse fra i nostri ascoltatori, lo spreco alimentare. È stato firmato proprio ieri un accordo importante fra Comune di Milano, Assolombarda e il Politecnico di Milano per contrastare questo fenomeno. Un fenomeno che, nonostante la crisi economica, non arretra e resta ancora molto alto in tutta Italia. Questo accordo contro lo spreco alimentare prevede in Lombardia azioni ed iniziative sulla gestione degli sprechi, ma anche iniziative sulla sensibilizzazione sul problema delle eccedenze alimentari, anche perché di recente il governo Renzi, lo ricorderete, che ne abbiamo parlato a cuore denari, anzi andate a ripescare la puntata sul nostro sito, ha varato un provvedimento che disciplina e regolarizza proprio l'aspetto appunto dello spreco alimentare. Il progetto firmato ieri si chiama Smart City a zero sprechi, già dice tutto, ancora di più se pensiamo ai temi che solo un anno fa ad Expo Milano 2015 portava all'attenzione internazionale. Allora, vi anticipavo poco fa di questa indagine, di questa inchiesta che è stata aperta dalla Procura di Trani, un'indagine per manipolazione di mercato contro un colosso bancario internazionale, Deutsche Bank e il suo ex management. L'inchiesta prende le mosse da una denuncia di un'associazione dei consumatori, Adusbef, e riguarda un periodo che non ci dimenticheremo mai più, primavera estate 2011, quando, ricorderete tutti, abbiamo preso grande confidenza con il termine spread, il differenziale di rendimento fra il titolo di Stato italiano, il BTP, e il Bund tedesco. Nell'autunno di quell'anno lo spread arrivò a 575 punti, lo ricorderete, praticamente il paese era sul baratro finanziario e si consumò il drammatico cambio di governo, prese il timone Monti, poi con tutte le polemiche che seguirono, ma di fatto quello spread che prese il volo, a quanto pare, fu causato quella divaricazione appunto improvvisa e anche drammatica in certi momenti anche da questa iniziativa che Deutsche Bank prese nei mesi precedenti, e cioè la vendita di titoli di Stato italiani per 7 miliardi. Allora, ci racconta qualcosa in più rispetto a questa indagine la collega di Radio Cori, Le Sole 24 Ore da Roma, Simona Rossitto, che saluto. Simona, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Che cosa sappiamo allora fino a questo momento rispetto a questa indagine della Procura di Trani, che va detto ne fa tante di inchieste nel mondo finanziario, spesso e volentieri sollecitata anche da questa associazione dei consumatori, però insomma questa indagine ci appare, a prescindere poi dalle ricerche di visibilità delle procure, che è l'altro grande tema del quale si parla in questi giorni, Simona, direi che però ecco la sostanza è comunque rilevante. Sì, assolutamente, infatti Deutsche Bank è proprio nel mirino dell'indagine che ha aperto la Procura di Trani. Secondo quanto filtrato fin da stamattina, al centro dell'inchiesta c'è proprio la vendita dei titoli di Stato italiani per 7 miliardi di euro, vendita che è avvenuta concentrata nel primo semestre del 2011, proprio all'inizio della crisi del debito sovrano che poi porterà l'Italia, come hai ricordato tu, sull'orlo del baratro. Le notizie, come è presumibile, insomma, in questi casi sono poche, c'è molta riservatezza, però si sa che l'indagine è stata condotta dal pubblico ministero Michele Ruggero ed è stata coordinata dal capo della procura, che è Carlo Capristo. Sono indagati, sarebbero indagati cinque degli ex manager che in quel periodo guidarono l'istituto tedesco. C'è ad esempio il presidente di Deutsche Bank, Joseph Ackermann, due ex amministratori delegati, l'ex capo dell'ufficio rischi e anche l'ex direttore finanziario. Diciamo che l'ipotesi avanzata dalla procura, cioè quella di manipolazione del mercato, viene spiegata, almeno secondo le prime indiscrezioni, col fatto che Deutsche Bank avrebbe comunicato agli investitori in quel periodo la sostenibilità del debito sovrano italiano e allo stesso tempo avrebbe comunque nascosto l'intenzione poi di vendere in brevissimo tempo un'entità di titoli molto grossa sul mercato. Praticamente cioè, tutto quello che aveva in portafoglio ammontava, secondo la ricostruzione dell'ANSA, 8 miliardi di euro, loro ne misero sul mercato in breve tempo 7. Sì, 7 miliardi e quindi incidendo ovviamente in maniera molto grossa sul valore. Esatto, e poi soprattutto immagino l'effetto, la ricaduta tra gli altri investitori, perché se tu metti sul mercato un pacchetto appunto di questo tipo è chiaro che lo spread si divarica, perché per vendere devi anche rendere il pacchetto venduto appunto appetibile nei confronti degli investitori disposti a comprare, e immaginate appunto l'effetto domino che si può scatenare rispetto ad un'operazione di questo tipo. Quindi a questo punto che altre notizie ci aspettiamo, Simone? Nel corso dei prossimi giorni abbiamo già saputo insomma che ci sono state delle perquisizioni, dei sequestri nella sede milanese della banca. Adesso ovviamente si aspettano gli sviluppi dell'inchiesta sulla quale al momento insomma c'è il massimo riserbo e poi insomma si vedrà se l'inchiesta poi sfocerà in un processo o meno. È da ricordare comunque che già una grossa inchiesta è stata fatta dalla procura di Trani su un argomento affine, sullo stesso argomento in realtà, sempre per manipolazioni di mercato, che però vedeva coinvolte grosse agenzie di rating, cioè Standard & Poor's e Fitch, e questo è un processo al momento in corso. Grazie Simona per i dettagli che ci hai fornito rispetto a questa notizia che è arrivata questa mattina presto. Noi continueremo a monitorarla nel corso della giornata, nel corso del giornale radio e delle altre trasmissioni di Radio 24. Intanto buona giornata. Noi ci fermiamo perché è tempo di andare a sentire, anzi anche troppo tardi direi, il traffico. Dopodiché drizzate bene le antenne perché cominciamo a parlare di lavoro. Lo faremo anche per una bella fetta di trasmissione fino alle 11.30. Monitoreremo qual è il rapporto degli italiani con il lavoro a tempo indeterminato. E poi soprattutto vi daremo qualche indicazione concreta su come cercare, se siamo ancora in tempo, speriamo di sì, qualche impiego estivo, naturalmente un'esigenza avvertita soprattutto fra i ragazzi che devono impiegare i mesi estivi quando si prendono la pausa da scuola, ma chissà che invece queste opportunità non li cerchino anche altri che sono magari a spasso e disoccupati da tempo. A tra poco. Cuore e denari. Allora, salutiamo con affetto l'ascoltatore Danilo che si lamenta del fatto che non viene celebrata la giornata del saldatore. Casualmente un altro messaggio, io sto facendo anche un confronto, non è lo stesso numero, quindi sono due persone distinte che scrivono più o meno la stessa cosa. Sono un saldatore che ascolta ogni giorno con piacere Radio 24, questo secondo ascoltatore che ci scrive su WhatsApp non si lamenta del fatto che non ci sia la giornata del saldatore come fa Danilo, ma Danilo, magari la possiamo celebrare noi oggi virtualmente, visto che di lavoro parliamo. Allora, gli italiani e il lavoro, quante domande, quanta preoccupazione, il mito del posto fisso, addio. I più giovani su questa prospettiva sembrano essere ormai pienamente consapevoli che la parola fisso appunto è stata sostituita con flessibilità, e quindi preferiscono molto realisticamente concentrarsi su altro, in primo luogo sulla propria formazione. Con grande razionalità sembrano alla fine meno preoccupati della sicurezza di un contratto a tempo indeterminato. Allora, questa non è una nostra riflessione che magari possiamo anche maturare osservando quello che ci accade attorno, ma in realtà lo sostiene anche Adecco, l'agenzia multinazionale di selezione del personale, che ha presentato proprio ieri una ricerca sugli effetti del tanto discusso Jobs Act e il rapporto degli italiani con il lavoro a tempo indeterminato. Allora, buongiorno e grazie per essere con noi questa mattina all'amministratore delegato Andrea Malacrida. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei, grazie dell'invito. Visto tanti articoli sui giornali questa mattina che vi danno risalto, non tanto, dottor Malacrida, per la questione dell'indagine che avete presentato, che è pure interessante, ma tanto per il fatto che siete considerati il primo datore di lavoro in Italia. Sì, assolutamente, veramente una cosa di cui esserne orgogliosi. È sicuramente una notizia che segna un po' il tempo, il passo e il forte cambiamento che si sta avendo al mercato del lavoro in questo momento. Allora, perché siete considerati tali? Perché nel 2015 avete attivato ben 160.000 rapporti di lavoro. Adesso intanto io immagino che cominceremo a raccogliere tutte le contestazioni del mondo, sono lavori in somministrazione, tempo determinato, poi ci darà qualche dettaglio in più sulla tipologia di contratti e su quanto vi abbia aiutato il Jobs Act. Partirei però subito con l'indagine. Perché avete voluto indagare su quello che pensano gli italiani e il tempo indeterminato? Appunto, a noi sembra abbastanza scontato, poi al di là di quello che diciamo siamo più flessibili, più aperti, più consapevoli, ma chi direbbe di no alla sicurezza del posto di lavoro? Ma la verità è che l'abbiamo fatto. Il primo motivo principale è perché, come Adecco Italia, siamo stati, come recita la campagna, il primo datore di lavoro in Italia nel 2015 anche a tempo indeterminato, nel senso che abbiamo assunto più di tutti, assumendo più di 5.000 persone a tempo indeterminato, ovviamente post Jobs Act. Dalla campagna e soprattutto dall'indagine, quindi l'analisi di mercato fatta, è vero che tante informazioni o tanti output sono già stati condivisi più volte, però alcuni sono veramente interessanti da approfondire, perché poi la garanzia sul posto fisso lo dicono 4 su 10, non più 7, 8 su 10. Oggi post Jobs Act sicuramente c'è più incertezza sulla definizione di assunzione a tempo indeterminato, sappiamo tutti ovviamente del cambiamento a tutele crescenti, e quindi dall'altra parte affiora la necessità importante da parte dei lavoratori a tempo indeterminato di far rivalere i concetti di meritocrazia, di performance, di competenze, di desiderio di eccellere, ok, con l'opportunità eventualmente di valutare per il 20% dei casi fuori indagine addirittura un posto che dal tempo indeterminato diventa un posto più imprenditoriale, se vogliamo, più da consulenziale. Allora, volevo intanto invitare gli ascoltatori, molti lo stanno già facendo spontaneamente, a chiamarci all'800 24 00 24 per spiegarci cosa conta per voi adesso nella ricerca del lavoro, il tempo indeterminato e quindi la sicurezza, vi do delle opzioni, la prospettiva di una crescita professionale nel tempo, la flessibilità intesa come mansioni, come orario di lavoro, anche questo magari un aspetto al quale molte persone danno un grande valore, la garanzia di poter fare formazione continua, insomma raccontateci un po' come la pensate, noi ci confronteremo adesso con Adecco, ma poi ci raggiungerà un'altra grande agenzia nella seconda parte della trasmissione con cui faremo anche un punto qualitativo sull'andamento del mercato del lavoro e poi soprattutto un occhio alle opportunità estive. Allora, dottor Malacrida, le faccio sentire un ascoltatore, Giovanni da Brescia, perché mi interessava adesso capire le classi di età che riuscite a collocare, quindi avere uno spaccato un po' più dettagliato di questa cifra che ho dato prima, i 160.000 rapporti di lavoro attivati lo scorso anno, perché come lei sa ci sono grossi problemi per gli over 50, per cui Giovanni da Brescia ci ha chiamato e io ho voluto subito sentirlo. Giovanni, benvenuto. Buongiorno a voi e grazie di avermi richiamato. Ci dica. Cercherò di essere esaustivo e assertivo. 54 anni, un discreto curriculum commerciale alle spalle, da 2 anni disoccupato, non ho ricevuto dallo Stato minimo aiuto né come i famosi centri per l'impiego, quindi con internet inglese e altre cose per riqualificarsi. Per quanto riguarda agenzie di lavoro interinale, io ho spedito la bellezza di 112 curriculum che hanno portato a 8 colloqui e 0 risposte. Faccio presente anche che faccio parte delle categorie protette con il 50% di invalidità, ma sono molto agile e anche, diciamo, volitivo. La sento, Giovanni, guardi, solamente ancora per il tono positivo che ha, io ci colgo anche proprio questa voce positiva, lei andrebbe veramente considerato solamente per lo spirito con cui ci sta raccontando la sua storia, comunque difficilissima. Giovanni, guardi, siccome fra un minuto e mezzo devo già chiudere la prima parte, poi ci torneremo nella seconda, volevo sentire subito Malacrida su questo caso, che penso sia proprio l'emblema di tutti quelli che raccogliete anche i vostri sportelli. Ma che cosa rispondete agli over 50? Ma allora, non è una questione di cosa rispondiamo io verso 50, innanzitutto buongiorno Giovanni, ci mancherebbe altro. Quello che dice un po' l'indagine, il numero degli assunti a tempo indeterminato sui 5.000 che abbiamo assunto nell'ultimo anno, sicuramente abbiamo anche splittato per diciamo percentuale incidenza di età e c'è proprio una categoria sopra i 50 anni che sicuramente è stata oggi quella con incidenza inferiore, però c'è stato un inserimento a tempo indeterminato di oltre il 6% di questi 5.000, quindi 6% di 5.000 a tempo indeterminato vuol dire circa 300 persone come tipo di numeri. Io posso rispondere esclusivamente con la tipologia di numeri e dall'altra parte con l'opportunità che matchino eventuali richieste e opportunità da parte del nostro mercato con skills richieste da parte di questo del candidato che ha richiesto. Però in questo caso l'invito ovviamente è quello di riapprofondire la candidatura, certo, di Giovanni. Gli diamo qualche suggerimento pratico tra poco, perché adesso il radiogiornale naturalmente chiede spazio. Ci sentiamo tra pochissimo. Proprio come voi, di chiacchiere non ne possiamo più ed è per questo che ci occupiamo solo dei fatti. Un'ora di informazione dall'Italia, dall'Europa, dal mondo, con servizi, interviste e analisi. Vi aspetto con tutta la redazione di Radio 24. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Da lunedì a venerdì alle 13 con Simone Spezia. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Cuore e denari. Eccoci ritrovati a Cuore e Denari. Allora è maggio e forse è un po' tardi, ma forse anche no. Vi siete già messi a cercare un lavoro estivo, esigenza che hanno prima di tutto magari gli studenti che vogliono occupare in modo utile i mesi estivi, ma anche, e lo dicevamo prima nella prima parte della trasmissione, forse persone più adulte che il lavoro lo hanno perso in tempi più o meno recenti, fanno fatica a ritrovarlo e quindi vorrebbero approfittare magari di un impiego estivo temporaneo per verificare se può scattare l'occasione di trovare qualcosa che invece diventi duraturo e stabile. Allora, per parlare di tutto questo abbiamo chiesto intanto ad Andrea Malacrida, amministratore delegato di Adecco Italia, di fermarsi ancora con noi per aiutarci a dare qualche suggerimento utile ai nostri ascoltatori che si trovano in questa condizione. E come vi anticipavo, lui abbiamo aggiunto anche un'altra grande agenzia. Qua parliamo del secondo player al mondo nei servizi per le risorse umane, Randstad. Buongiorno ad Andrea Migliorati, Business Development Manager per questa azienda. Benvenuto e grazie. Grazie, buongiorno, grazie dell'invito. Allora, intanto per fare anche un po' il riassunto dei minuti precedenti, eravamo rimasti anche al tema degli over 50 senza lavoro, a volte anche super qualificati o comunque molto attivi, niente affatto demotivati, come era l'ascoltatore appunto di Brescia che ci ha chiamato, ma insomma è a spasso da 2 anni, a quanto pare lui ritiene che l'età rappresenti proprio l'elemento di discriminazione dal posto di lavoro, non si sente tanto aiutato dal pubblico. E devo dire che una volta ascoltata la testimonianza dell'ascoltatore di Brescia, in tanti si sono accodati con delle riflessioni simili. Addirittura Giovanni ci scrive su WhatsApp: ne ha 43, ha 40 anni, si sente vecchio. Luca: molti curriculum inviati anche alle aziende che avete di presenti, zero risposte. Tra l'altro, Malacrida, magari per soffermarci e chiudere questa parentesi, sarà anche un po' il modo, ma non per contestare agli ascoltatori che ci hanno chiamato, ma così perché viene in mente a me che potrebbe anche essere un aspetto su cui fare qualche riflessione. Il modo con cui ci si presenta quando si è in una condizione di difficoltà può anche incidere sul fatto che il mercato del lavoro non ti prenda in considerazione? Quindi rivedere il curriculum, tutte le solite raccomandazioni, che dice? Beh, certo, noi diciamo che consigliamo sempre da una parte di ovviamente adeguare tutta la parte legata al package per cui uno si presenta a fare un colloquio, e quindi sicuramente il curriculum vitae piuttosto che il dossier confidenziale con la compagna, la modalità di presentazione che deve esserci e poi come indirizzarlo e a chi indirizzarlo soprattutto. Poi dall'altra parte anche live, quando si va a fare il colloquio, ci sono alcune accortezze che è importante, ovviamente su cui è importante fare molta attenzione. E allora fra un po' daremo anche dei suggerimenti, magari visto che vogliamo approfittare del contesto estivo, facciamo anche un buon colloquio di lavoro che può essere l'ottimo biglietto da visita poi per avere occasioni in futuro. Intanto, sempre a proposito di Randstad, volevo segnalare un'indagine invece che questo gruppo ha fatto qualche settimana fa in occasione dei Randstad Awards 2016, è un grande premio appunto, c'è una manifestazione a Milano in cui viene celebrato. Pare che gli italiani sognino di lavorare in Ferrero, Apple e e Maserati. Sono le aziende che hanno vinto la sesta edizione di questo premio e queste sono considerate appunto le aziende più attrattive come potenziale datore di lavoro sulla base appunto di questa indagine che Randstad fa su scala mondiale. Pensate che è uno studio condotto su 200.000 persone in 25 paesi in modo indipendente, perché le aziende non possono iscriversi per partecipare, quindi è uno studio appunto fatto da Randstad che va a monitorare quello che pensano appunto i possibili dipendenti delle aziende sulle aziende dove vorrebbero lavorare e perché, e pare che il fattore più importante ricercato in un datore di lavoro fra i primi 5 segnalati è rappresentato da retribuzione benefit, la sicurezza nel posto di lavoro, ma anche l'atmosfera di lavoro piacevole, quindi la qualità di vita nell'ambiente di lavoro che viene sempre più ovviamente ricercato. Ci sono poi tutte le tematiche legate alle differenze di genere, le donne che ricercano maggiormente sicurezza del posto, equilibrio vita professionale privata e quindi insomma tanti aspetti assolutamente interessanti. È un grande interesse che lo racconta anche Adecco nell'indagine presentata ieri e Randstad nell'indagine presentata qualche settimana fa, grandissima attenzione su tutte le novità legate allo smart working, e quindi ci torneremo su questo tema perché vedo che dopo che è partita appunto anche la normativa italiana ormai molte aziende sempre di più si vanno attrezzando per dare queste opportunità ai lavoratori. Ma andiamo un po' a dare invece un'occhiata a quello che succederà quest'estate. Vorrei sentire anche in questo caso gli ascoltatori all'800240024 come vi state muovendo, se lo state facendo, per questa ricerca estiva. L'idea è di trovare un impiego temporaneo sfruttando le opportunità estive, oppure l'obiettivo è trovare il temporaneo affinché si trasformi in duraturo, stabile, indeterminato. Migliorati, Randstad, come comincio con lei. Il turismo, la ricezione alberghiera, la ristorazione sono tradizionalmente considerati in questo frangente i grandi bacini di raccolta stagionali, no? Per il classico lavoretto estivo dobbiamo partire da qui o non è detto? Non lo dobbiamo dare per scontato? Possiamo guardarci anche intorno e cercare altro? Ma diciamo che sì, questi sono i settori tipicamente durante l'estate più importanti in cui la movimentazione e le ricerche di personale si ampliano. Non dimenticherei, perché in realtà sono settori che comunque in questo periodo dell'anno offrono molte opportunità, i settori del retail, della grande distribuzione organizzata, ma anche del servizio alle imprese, perché poi in questo periodo ovviamente aumentano i fabbisogni anche di supporto alle organizzazioni, diciamo alle operation. Quindi diciamo è un periodo in cui le opportunità di lavoro crescono in ambiti molto diversificati. Malacrida, per quello che riguarda voi invece, che tipo di suggerimenti di partenza ci può dare per muoverci nel mondo del lavoro per la ricerca del lavoro estivo? Le aziende che chiedono la vostra intermediazione, che cosa stanno mettendo sul piatto per l'estate 2016? Beh, ma sono due cose, diciamo due ambiti differenti e paralleli. Il primo è sicuramente quello della sostituzione delle ferie, è quello diciamo è contingente a tutti gli effetti ed è quindi prettamente temporaneo e sostitutivo rispetto ovviamente all'attività e al periodo estivo. Dall'altra tutte quelle esercizi o attività economiche che prevedono ovviamente l'inserimento di figure per i picchi estivi, e quindi nell'ambito ovviamente della ristorazione su tutti, nell'ambito del turismo determinante, nella grande distribuzione oppure attività peculiari per la stagione, quindi lavoriamo tanto per esempio per le vendemmie e quindi oppure per la raccolta delle mele, piuttosto che per attività legate alle gelaterie, piuttosto che attività legate lo stesso a attività ludiche in piscina, piuttosto che al mare, piuttosto che similari. Ce n'è qualcun altro più caratterizzante e che probabilmente non ci si riflette sopra quando si cerca lavoro d'estate, che magari è legato al mondo farmaceutico, per esempio per dei vaccini da fare, piuttosto che da attività legate ovviamente sempre al periodo estivo o al periodo turistico, però non con... Non solo l'animatore, insomma, no, o l'addetto alla gelateria, come lei diceva poco fa. Allora, intanto, io così avevo invitato i nostri ascoltatori a raccontarci se fossero alla ricerca di qualche qualche opportunità estiva di lavoro, perché magari sono giovani, stanno completando gli studi universitari, hanno un po' più tempo libero appunto nei prossimi mesi, o viceversa magari mamme e papà che sono alla ricerca di qualche impiego per i figli che in questo momento non possono chiamare perché sono ancora a scuola. Vedo che invece state concentrando tutti l'attenzione sul tema che abbiamo proprio in maniera strasuperficiale stamattina trattato poco fa, che è quello degli over 50 che non trovano lavoro, e qua insomma dobbiamo ragionare veramente con grande forza su questo scontro ormai generazionale fra chi è più giovane e chi ha superato questa soglia di età ma è ancora attivissimo, quindi ha tutto il titolo per rimanere nel posto, nel mercato del lavoro, e però insomma se si esce in realtà poi continuano a contestare gli ascoltatori. Se tu nel curriculum addirittura un ascoltatore chiede menti e indichi che hai 10 anni di meno, allora ti chiamano a sostenere un colloquio, al contrario non ti tengono in considerazione. Non lo so, Migliorati vuole commentare qualcosa su questo? Voi fate tante indagini naturalmente anche nel vostro gruppo, che vogliono cogliere anche proprio le sfaccettature anagrafiche, tutte le problematiche. Secondo lei insomma ad un over 50 magari partire con un lavoro estivo per cercare di capire se si può trasformare in qualcosa di duraturo, possiamo dare qualche indicazione da parte vostra? Ma è assolutamente importante, diciamo che oggi come oggi giocarsi un'opportunità di lavoro anche estiva, sia giovane o meno giovane, è un'occasione da non perdere ed evidentemente da sfruttare al 100%. Oggi come oggi credo che la difficoltà sia reinserirsi. Da questo punto di vista Randstad si occupa spesso di supportare gli over 50, ma non solo, diciamo nella preparazione di un curriculum o alla preparazione per colloqui di lavoro, che spesso diciamo per tipologie di persone di questo tipo sono attività che non si fanno da alcune volte da decenni. Quindi diciamo da questo punto di vista è fondamentale secondo me anche passare un messaggio di positività, nel senso che in questo momento ci sono delle opportunità importanti, e soprattutto per persone che hanno grosse esperienze magari il lavoro è quello di rimettersi in pista, diciamo un po' a registrare un po' il tiro e rimettersi in gioco. Spesso l'attività che facciamo è un'attività quasi di consulenza o di supporto, mi consenta, psicologico in questa fase. Lo consento, sì, anche perché vedo che ne hanno bisogno gli ascoltatori. Che pensi? Si stanno anche offendendo qualcuno per il fatto che ho così suggerito di stare anche attenti dal tipo di curriculum che si fa circolare, perché magari ha bisogno di essere un po' revisionato. Un ascoltatore mi dice: non siamo scemi, il curriculum lo sappiamo scrivere. Vabbè, voi sarete bravi, sarò anche fortunata che ho qui un posto di lavoro stabile da tempo e quindi non l'ho aggiornato, ma devo dire che secondo me se io rimanessi a spasso lo dovrei riaggiornare completamente, perché è completamente fuori dagli standard che vedo circolare in questo momento dai ragazzi che si candidano per le nostre posizioni. Naturalmente vedo che io proprio presento qualcosa di radicalmente diverso, sembra medievale il mio documento, per cui io per quello che mi riguarda lo dovrei rifare tutto, per cui che sappiamo scrivere le cose che abbiamo fatto sono assolutamente certa, che vadano bene le comunicazioni che mettiamo per il potenziale datore di lavoro nuovo non so. Detto questo, Malacrida, secondo lei, per chi si propone per un impiego estivo, quindi temporaneo, deve presentare una candidatura sempre secondo criteri formali, appunto con invio curriculum, lettera di motivazione, oppure possiamo permetterci di essere più, non dico superficiali, un po' più sbrigativi, o comunque va sempre considerato un biglietto da visita anche per altre occasioni future? So che metto la risposta implicita in questa mia domanda, però non so, magari lei l'ha persa in maniera diversa. Malacrida. Di serie A o di serie B, cioè assolutamente, quindi oggi per qualsiasi tipo di occupazione, che sia ovviamente di breve durata o comunque un'opportunità di carriera a medio lungo termine, occorre comunque prepararsi adeguatamente al tipo di colloquio e al tipo di attività per cui si affronta un percorso di selezione, soprattutto perché spesso che sia la piccola impresa o che sia la grande multinazionale, le aspettative nel riconoscere e dare un'opportunità lavorativa oggi poi devono matchare con ovviamente delle competenze, degli skills e ovviamente un tipo di curriculum che deve essere in linea con quello che si certo cerca. Migliorati, voi che indicazioni date sempre in questo contesto? Come presentarsi per andare a fare l'animatore turistico, per esempio? La cosa importante credo che far emergere la passione di un settore, in questo caso poi insomma, si presta molto bene quel tipo di settore per far emergere la passione, la motivazione a quel segmento. Riprendo anche il tema del curriculum o di lettere di motivazioni annesse. L'importante è sempre cercare di far capire che quel tipo di occasione che si sta cercando sul mercato non è semplicemente un'occasione estiva, ma può essere un'occasione di dar vita al proprio lavoro, partendo da evidentemente magari di qualcosa di più limitato nel tempo, ma che in qualche modo può diventare il trampolino di lancio o la palestra su cui lavorare. Quindi l'importante è utilizzare, penso al curriculum vitae, un format snello ed efficace, ma che soprattutto faccia passare tutti gli elementi di esperienza necessari e la motivazione e la passione per un segmento. Allora, intanto continuano a dare. Allora, è chiaro che le segnalazioni che ci arrivano sono quelle che vogliono evidenziare delle criticità rispetto al tema che stiamo trattando questa mattina. Vorrei che anche qualcuno ci scrivesse se un colloquio con un'agenzia del lavoro è andato a buon fine e se magari sono riusciti a intermediarvi per bene, perché in realtà continuano ad arrivarci segnalazioni di chi continua ad iscriversi anche alle grandi agenzie senza ricevere mai risposta. Lo segnala per esempio Roberto, papà di una ragazza stralaureata con lode, continua a mandare richieste su richieste a tutte le società principali, comprese le due che sono con noi questa mattina. Nessuno chiama, nessuno risponde. Allora, Malacrida, da qualche parte qualcuno deve partire, ragazzi, in primo luogo naturalmente, una prima opportunità parte da zero. Non chiamarli mai se si ha un curriculum invece molto scarso è una politica che a noi non piace. Voi come vi comportate rispetto a chi appunto vi invia un curriculum per avere la primissima occasione di lavoro? Ma allora, anche qua ovviamente bisogna indirizzare le persone rispetto alle opportunità che oggi ci sono sul mercato del lavoro. È ovvio che stiamo parlando di neofiti o di persone a primissima esperienza, dopo una laurea, dopo un diploma che si mettono sul mercato. Il passaggio per un'agenzia per il lavoro, per Adecco in questo caso, sicuramente è la prima cosa da fare, prioritario. Ci sono tante attività di recruiting fatte per differenti settori, differenti multinazionali, che partono proprio da talent pool di potenziale legati a dei neofiti appunto con laurea piuttosto che con diploma. La cosa più importante ovviamente onestamente che devono ovviamente combinarsi e matchare con bisogni realmente richiesti. Questo deve essere un po' il passaggio effettivo. Quindi nel totale delle persone gestite, ripeto, noi gestiamo circa più di 200.000 contratti di lavoro l'anno, 200.000 persone l'anno, poi contrattualizzate circa 165.000 solo sul 2015. Onestamente il numero di incidenza dei neolaureati e dei neodiplomati è altissimo. Poi ogni caso singolo probabilmente può avere la sua criticità. Quello che invito io è intervenire su adecco.it come nostro sito, riscriversi e ripassare facendo presente la cosa in un'agenzia per il lavoro, in maniera allora, molto onesta. Migliorati, ritornando alla questione del lavoro estivo, appunto, visto che il nostro focus in questa seconda parte voleva essere questo. Chiaramente parliamo di situazioni diverse a seconda che firmiamo con l'agenzia o direttamente con l'azienda, ma generalmente per un impiego di pochi mesi, che può andare, ne so, da giugno a settembre, che tipo di contratto ci possono proporre? E poi, per esempio, sono lavori che possono essere retribuiti anche con i tanti contestati voucher che in questo periodo sono oggetto di una riorganizzazione per farne appunto degli strumenti tracciabili? Ma il tipo di inquadramento, diciamo che il quadro normativo retributivo è analogo rispetto a un inserimento diretto oppure l'intermediazione attraverso un'agenzia per il lavoro, quindi diciamo, da questo punto di vista non ci sono delle grosse diversità. Quello che magari potrebbe essere potrebbe costituire una differenza è che lavorando con un'agenzia per il lavoro come Randstad, la continuità lavorativa al di là insomma del periodo estivo può essere garantita al di là della singola azienda. Per il resto ovviamente in questo periodo i contratti sono spesso part time, sono spesso di qualche settimana oppure di qualche mese, e le tipologie contrattuali che possiamo incontrare sono diversificate. Sicuramente anche il voucher è sicuramente uno strumento utile per attività discontinue, si pensa per esempio all'ambito dell'alimentare o dell'agricoltura che abbiamo parlato prima. Infatti, però insomma, ci sono sicuramente tante opportunità per le aziende di scegliere il contratto di riferimento migliore. Sta poi diciamo ai candidati, anche se spesso non è facile, scegliere quel tipo di contratto che meglio si disegna rispetto al proprio progetto di vita. Ovviamente scegliere è un lusso in certi esatto. casi. Quindi chi non vorrebbe lavorare in Ferrero, Apple e Maserati, certo. migliorati. Certo, infatti. Però insomma, diciamo che dobbiamo anche cercare di capire da questo punto di vista cosa ci serve in un certo periodo e magari, come si diceva prima, cercare di capire anche che non tutto è possibile, alcune attività come per esempio lavorare in un tour operator può diventare un'attività di vita più a lungo periodo, ma magari cambiando, evolvendosi. Devo dire che mi stavano venendo in mente alcune testimonianze nelle post Expo 2015 di tutti quei ragazzi che sono stati impiegati per quei 6-8 mesi in questa grande kermesse, appunto, che ha visto Milano come protagonista, e molti hanno scoperto lì le loro vere vocazioni legate magari al settore agroalimentare, l'intrattenimento, la ricezione, eccetera. Magari sono stati ragazzi che facevano percorsi di studio completamente diversi e che invece lì hanno scoperto di avere delle vocazioni, delle attitudini, e che adesso hanno trovato veramente la loro strada. Per cui mi piace anche quest'ultimo aspetto, Migliorati, che stava sottolineando. Detto questo, noi tra poco dobbiamo chiudere questa parte. Prima di salutarvi, Migliorati e Malacrida, vi farei sentire la testimonianza accorata di un papà, che è Paolo da Bergamo, che lui dice, insomma, io rinuncerei anche a parte, no, del mio stipendio, Paolo, per fare che cosa? No, io dicevo, io ho 51 anni, lavoro nel settore edile, sono anche stanco perché ho quasi 37 anni, però lavoro pesante. Ed è anche poi giovane. Sono giovane, ma io ho cominciato a 14 anni però. Cioè, io ho lavorato, però va bene, posso lavorare anche fino a 55 anni, che poi arriverei agli agognati 42 anni, ma io dico una cosa semplice. Per me è sensata, ma magari c'è chi ha studiato più di me, ne sa più di me, se me dicessero: tua figlia la mandiamo a lavorare, tu rinunci al 30% della tua pensione per abbassare l'IRPEF o per aiutare le aziende a assumere giovani. Io sarei d'accordo, perché i soldi in casa mia entrano ugualmente finché mia figlia non esce di casa. No. A livello economico andrei bene e i figli comincerebbero a farsi un bagaglio lavorativo. Grazie. Perché se non vogliamo bene ai nostri figli, ai nostri giovani, è finita, questa nazione è finita. Eccola qua la staffetta generazionale che intendiamo noi, Paolo: ritirarsi dal mondo del lavoro per fare vero spazio alle nuove generazioni, è anche il grande tema del momento. Lo riaffronteremo in un'altra circostanza, oggi non abbiamo più tempo per poterlo fare, però grazie per avercelo detto. Sì, intanto Marco aveva anche recuperato Pietro da Lucca. Pietro, guardi, rubo qualche momento ai mercati, sento anche lei velocemente, grazie. Non lo sentiamo. Pietro, sì, guardi, nonno è disturbatissimo, non ce la faccio. Figlio non è laureato, ha la licenza media, sta lavorando presso una multinazionale che monta Bancomat, è riuscito ad essere impiegato con l'agenzia interinale per 3 mesi, gli hanno già detto che gli faranno un contratto a tempo indeterminato. Siamo molto contenti per questa storia di successo, questo non è un invito a non proseguire gli studi, il figlio di Pietro evidentemente non era tagliato per continuare appunto su questa strada, siamo ben contenti che almeno si tratti una volta tanto di una storia a lieto fine. Grazie ad Andrea Malagrida e ad Andrea Migliorati per essere stati con noi. Buona giornata, borsa, e poi andiamo avanti con il ping pong sul posto di lavoro, ma anche parleremo di sudore a tra poco. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta Cuore e Denari. It's all right, Ha una storia ultracentenaria, è nato in Inghilterra alla fine dell'Ottocento, ha come antenato il tennis. Oggi parliamo del ping pong, lo facciamo perché oltre ad avere 40 milioni di praticanti nel mondo ed essere disciplina olimpica dal 1988, sarebbe lo sport nazionale della Silicon Valley, perché dalle parti di San Francisco, Berkeley, Palo Alto non esiste una startup, quella è la zona appunto riconosciuta a livello mondiale per essere la sede più importante dell'avvio di attività innovative. Appunto, non esiste una startup senza racchette e palline. Allora, della serie No Ping Pong, no idee, evidentemente stimola molto anche la creatività. Voi avete mai provato a cimentarvi con questo sport? Se ce la fate, raccontatecelo all'800 24 00 24. Quando e come racchette e palline sono diventate vostre compagne di vita? Condivideremo le vostre storie di vita questa mattina con Matteo Quarantelli, direttore tecnico dell'attività giovanile della Federazione Italiana Tennis da Tavolo, perché non si dice ping pong ma ha il nome preciso. Quarantelli, buongiorno direttore, grazie per essere con noi. Buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno ai radioascoltatori. Ecco, quindi ping pong o tennis da tavolo? Ci chiarisca subito le idee per noi che non abbiamo grande confidenza con questa disciplina sportiva. Ma se dobbiamo declinarla in maniera, come dire, impegnativa, linguistica, ufficiale, se vuole lo chiamiamo tennis tavolo. Diciamo che gli stessi addetti ai lavori molto familiarmente continuano a essere affezionati a ping pong perché, come dire, parte del nostro DNA di atleti ma anche di giocatori, perché forse questa è una delle anime doppie, no, di questa attività, sia atleti ma sia soprattutto dei giocatori. Quarantelli, per chi è adatto questo sport? Ci fa un identikit della persona che potrebbe diventare appassionato di questa attività sportiva ma magari ancora non lo sa? Beh, in qualche maniera farei prima sostanzialmente a immaginare a dire che chi tutti non potrebbe, ecco, perché oggettivamente si adatta, no, a molte età della vita, ha molte esperienze legate al movimento, non ha una fisicità forse pari a quella di altre discipline, quindi lo rende più accessibile a persone che abbiano una normale motricità o siano magari anche, come dire, dei disabili. È uno sport che è anche molto diffuso proprio in queste popolazioni speciali. Direi che nella sua accezione di gioco probabilmente è molto vicino, no, a tante persone, anche in Italia in passato molte persone della mia generazione sono sicuramente passate attraverso una pratica, no, in un come dire, salone parrocchiale piuttosto che come dire, nella stanza di un appartamento, piuttosto che in un giardino, perché molto spesso, non lo nego, ci sono anche tante situazioni dove viene praticato, no, all'aperto. Immagini anche tanti stabilimenti balneari, no, propongono questo tipo di attività. L'attività, insomma, ricreativa per eccellenza. Non è soltanto, ecco, attività però che consente di tenersi in forma dal punto di vista fisico. E come abbiamo anticipato raccontando l'esperienza della Silicon Valley, sembra anche proprio un hobby ricreativo che però offre anche numerosi benefici psicofisici. Significa intanto, giocando a ping pong, mettere in moto i muscoli, favorire lo sviluppo e il benessere della propria condizione fisica ma anche mentale. Secondo lei perché è così diffuso in quest'area californiana? Ma mi verrebbe da pensare che molti dei professionisti di quel campo, ma forse ormai è così anche per tanti altri campi professionali, dedicano molto tempo ai loro device telematici e quindi passano molto tempo seduti, passano molto tempo davanti allo schermo di un tablet, di un PC, e quindi vogliono trovare una dimensione più reale, no, di se stessi, del movimento, del confronto, perché guardi, la parola ping pong è anche una parola che noi utilizziamo nella quotidianità quando vogliamo rappresentare, come un dire, rimbalzo, un confronto esatto. Ecco. Il tema del rimbalzo è effettivamente per eccellenza viene associato proprio in ogni senso, quindi, di responsabilità, di risposte, infatti. Assolutamente sì, quindi questo è il primo passaggio, no? Io voglio dedicare un momento della mia giornata a interrompere delle attività che richiedono una componente cognitiva molto importante, con qualcosa che da una parte sia in grado di attirare la mia attenzione proprio perché è un gioco, secondo perché è un gioco di movimento, quindi in ogni caso finalmente non sono più seduto, non sono più fermo, terzo perché viene percepito, e probabilmente è così, molto accessibile, cioè tutti possiamo cominciare a giocare, ognuno poi sarà più o meno abile, più o meno competente, più o meno, come dire, in grado di vincere qualche partita, però intanto tutti giochiamo. Infatti. Allora, parlava prima del movimento, anche un po' a scatti, Quarantelli, e allora qua bisogna suggerire un po' di attenzione a chi magari ha un ginocchio particolarmente sensibile, perché qua gli spostamenti sono rapidi e anche la posizione della schiena appunto va sicuramente tenuta sotto controllo. Che tipo di suggerimenti possiamo dare da questo punto di vista, puramente fisico, per chi vuole cimentarsi in questa pratica sportiva? Paradossalmente laddove riusciamo a utilizzare al meglio i nostri piedi, cioè riusciamo ad assumere delle posizioni e a modificarle continuamente, quindi continuiamo a modificare l'appoggio dei nostri piedi a terra, riusciamo a garantirci una sorta di attività preventiva, perché molti dei problemi nascono laddove, per la rapidità dei movimenti, no? E per il ridotto tempo a disposizione, invece di spostarci, invece di trasferire il nostro corpo da un punto a un altro, cerchiamo di agire ugualmente da fermi, quindi con delle torsioni del busto che sicuramente generano un po' di stress alla nostra colonna vertebrale, certo. E non di meno affaticano, diciamo così, il mantenimento di posture semipiegate, che alla lunga possono anche avere qualche incidenza sulla salute delle nostre ginocchia. Abbiamo notato che fondamentalmente nel tempo i nostri atleti hanno cominciato a svolgere una complessa attività preventiva, soprattutto per salvaguardare intanto l'arto con il quale sono impegnati a, come dire, a muovere la racchetta, e poi soprattutto direi la colonna vertebrale, quindi tutto quello che può essere un allenamento preventivo, quindi legato al fatto proprio di salvaguardare la salute del cosiddetto core, è oggi molto utilizzato, perché proprio come atleti di altre discipline sportive, mi viene in mente il tennis, che è diciamo il nostro il fratello maggiore, esatto. dobbiamo in qualche maniera far fronte, no, a un impegno fisico che per gli atleti magari è grande, e con la necessità di salvaguardare le strutture del nostro apparato locomotore. Allora, quindi il tema è: se non avete fatto niente di attività fisica in tutta la vostra vita fino a ieri pomeriggio e oggi vi stimoliamo con il ping pong, non avventuratevi anche qui come se fosse un terreno facilissimo da praticare, perché magari avete così qualche problemino pregresso al fisico che salta fuori proprio con il ping pong. Quindi attenzione, bisogna preparare il fisico anche per questa pratica sportiva. Prima di salutarla, Quarantelli, le faccio sentire addirittura due ascoltatori che si sono candidati ad intervenire stamattina per raccontarci la loro esperienza sul tema del ping pong, ma anche Francesca ci scrive una cosa molto carina su WhatsApp, è davvero internazionale per tutti, perché io ho fatto una partita perfino in Etiopia, in un villaggio delle Bell Mountain nel lontano 2003. Federico da Bologna, buongiorno, rapidissimo, grazie. Buongiorno, rapidissimo, le cose tante sarebbero da dire, ma intanto grazie di avermi dato questa possibilità, vi seguo sempre. Io sono un praticante di ping pong e parto che nasco da casa, mio papà me ne aveva fatto uno in casa e con i fratelli abbiamo giocato, è stato un elemento di unione tra amici. Ecco. Oggi che sono un personal trainer capisco che quando gioco con i miei figli il loro allenamento fin da piccoli, nell'allenamento oculo manuale, la coordinazione, i gesti semplici crescono sempre di più e affinano ha questa grande particolarità che se li seguiamo diventeranno dei grandi atleti. Grande Federico, perché c'è un grandissimo allenamento alla base di divertimento. Esatto, grazie. No, il tema della coordinazione oculomanuale peraltro era un tema che forse dovevamo anche trattare, non ce la facciamo. Adesso detto questo sentirei velocemente anche Nunzio dalla provincia di Lodi, perché insomma abbiamo addirittura sbizzarrito gli ascoltatori sul ping pong, perché non sentirli. Nunzio, benvenuto anche a lei, se ce la fa in 30 secondi, 40 al massimo, grazie. Buongiorno a tutti, grazie per avermi dato la parola. Io sono un educatore parrocchiale, lavoro in un oratorio e da tanti anni nella nostra zona questo sport è stato un po' dimenticato. Abbiamo voluto dare insieme ad altre famiglie un po' la possibilità ai ragazzi di fare questo sport, di recuperare questo sport, soprattutto a chi non pratica calcio o tutti gli sport più famosi, diciamo. E abbiamo scoperto una cosa, che è uno sport versatile perché ha avvicinato moltissimi adulti. Partendo dai ragazzi, ora abbiamo adulti e più piccoli che stanno giocando insieme. Cioè la dinamica, la dimensione della relazione tra generazioni è stato veramente... importante. Grazie anche a lei Nunzio per questo bellissimo messaggio finale. Io ricordo che questo è uno sport dinamico, occorre anche l'abbigliamento sportivo adatto, comodo per poter stare al passo con l'avversario, perché quando il gioco si fa duro si suda parecchio, e questo è il tema che andiamo ad approfondire adesso dopo il traffico, ringraziando Matteo Quarantelli, direttore tecnico dell'attività giovanile della Federazione Italiana Tennis da Tavolo. Velocemente il traffico, a tra poco. Cuore e denari. Margherita Serafini, quarto banco, fila centrale. Ciao, oh, Postiglione, come stai? Carissima, carissima. Ma che hai fatto, il bagno? No, solo sudore. Ma la sudorazione, come tu mi insegni, non è provocata soltanto da agenti termici, ma anche da fattori emozionali. Quindi magari si era fatto una partita di ping pong poco prima, il nostro protagonista del nostro film. Allora, buongiorno e grazie per essere ritornata a trovarci, la dottoressa Adele Sparavigna, dermatologa, benvenuta. Buongiorno, grazie dell'invito. Come se la cava con il ping pong, dottoressa Sparavigna? Io me la cavo male con tutte le discipline sportive, però il ping pong è quella che forse mi piace di più. Ah, ecco, vede. Allora, tutti sudiamo, chi più chi meno, ma pochi sanno contrastare la sudorazione in modo corretto, perché intanto il sudore ci dà fastidio, poi quando si comincia a sudare, avendone la percezione, si suda sempre di più, ecco. L'imbarazzo cresce, sempre al momento sbagliato, quando capita appunto il famoso alone sotto la camicetta, magari messa quel giorno del colore sbagliato, che lo evidenzia tutto il problema. Ci si può addirittura anche trovare in una cattiva luce con chi c'è vicino. Insomma, dottoressa Sparavigna, forse dovremmo parlare, come lei ci insegna, di sudori, perché sudare per il caldo, l'esercizio fisico, lo stress sono proprio dinamiche completamente diverse. Infatti, prima di tutto dobbiamo sapere che esistono due tipi di ghiandole sudoripare. Le ghiandole eccrine, che sono quelle distribuite su tutto il corpo, ma anche in regione palmare e plantare, e le ghiandole apocrine, che sono quelle distribuite a livello delle ascelle, dell'inguine e dei genitali. Ovviamente le seconde sono anche sotto un influsso ormonale e servono proprio per darci una impronta olfattiva. Da un punto di vista dei feromoni, quindi da un punto di vista di richiamo sessuale. La funzione quindi delle ghiandole invece eccrine è una funzione di dispersione del calore, e questo meccanismo si può sregolare nel momento in cui ci sono delle condizioni emotive che vanno a inserirsi su questo circuito. Fino a che punto è fisiologica una sudata? Allora, una sudata è fisiologica nel momento in cui esiste una rispondenza tra l'attività fisica che stiamo facendo, e quindi lo sforzo fisico, e il meccanismo di increzione della sudorazione. Se invece siamo a riposo ed è soltanto una situazione di emotività a scatenarci la sudorazione, allora ci dobbiamo preoccupare, perché dobbiamo lavorare in un senso diverso. Che cos'è che provoca il cattivo odore del sudore, dottoressa Sparavigna? Mi suggeriva Nicoletta la presenza di batteri, certo, è così? ci può essere una colonizzazione batterica e questo accade soprattutto a livello delle ghiandole apocrine, quindi a livello ascellare e a livello genitale, e in realtà il sudore nasce sterile e inodore, e poi la presenza di questi batteri che vanno a intaccare alcune sostanze presenti nel sudore, a trasformarle in sostanze maleodoranti, fa il resto. Invece abbiamo poi anche un altro meccanismo, che è invece un meccanismo che colpisce soprattutto le sedi dove sono presenti le ghiandole eccrine, e mi riferisco fondamentalmente ai piedi, dove c'è una macerazione della cute. E quindi su questa macerazione, perché è troppo bagnata, e su questa macerazione si impiantano poi successivamente dei germi che possono causare il cattivo odore. Ecco, allora, cattivo odore come terribile effetto collaterale del sudore. C'è chi sicuramente si disinteressa del problema, e nostro malgrado, purtroppo qualche volta ce ne rendiamo conto frequentando ambienti affollati. C'è chi invece vive questo problema come un vero dramma e cerca di proteggersi, di riparare in ogni modo, magari qualche volta utilizzando il deodorante di ogni tipo, dallo spray alla crema, il roll-on, ma c'è anche in questo caso un deodorante per ogni sudore, immagino, certo. Dottoressa Sparavigni, e qua come facciamo a capire qual è il nostro? Qual è la modalità giusta per appunto deodorarsi quando abbiamo questo problema, no, oltre al formato, ma anche, che ne so, la fragranza, la consistenza? Allora, dobbiamo prima di tutto distinguere le condizioni di iperidrosi, che sono quelle che abbiamo descritto prima, dalle condizioni di bromidrosi, che sono invece quelle del sudore maleodorante. Non è detto che chi ha un sudore maleodorante abbia anche un'iperidrosi. Quindi è sbagliato in quel caso utilizzare degli antitraspiranti quando il problema sta da un'altra parte. Come facciamo a capirlo? È semplice, okay. Effettivamente se abbiamo quell'alone molto antiestetico che si accentua in particolari situazioni, allora molto probabilmente dovremo agire anche in senso antitraspirante. Se invece abbiamo soltanto un problema di odore, di cattivo odore del sudore, allora dobbiamo agire proprio contro questi batteri. Esistono dei prodotti, di solito veicolati sotto forma di creme e di solito a lunga durata, che hanno un'azione antibatterica e contengono anche degli enzimi in grado di metabolizzare e quindi di distruggere queste molecole del cattivo odore. Allora, prima di deodorarsi, dottoressa Sparavigni, adesso mi rendo conto che magari può apparire anche una considerazione strabanale, ma certamente c'è chi pensa che deodorandosi molto, magari avendo trovato anche il deodorante giusto, possa permettersi magari di non lavarsi precedentemente, quindi di insistere con il deodorante sopra il sudore senza aver fatto magari una operazione di igiene preventiva. Ecco, lì vogliamo magari ristabilire un po' di puntini sulle i, come direbbe Nicoletta? Certo, assolutamente. È sbagliato coprire un odore con un altro odore. Perché si crea un mix, una sommatoria che non sempre risulta gradevole. Quindi ancora prima del deodorante occupiamoci del sapone. Ecco, ci occupiamo del sapone, ci sono delle condizioni che addirittura necessitano di saponi antisettici, e quindi magari in quel caso, quando la bromidrosi è molto accentuata, forse conviene sentire e farsi vedere da un dermatologo, perché si parte proprio da una detersione antisettica e poi si segue con l'utilizzo di prodotti che siano a scopo antibatterico. Addirittura ci sono delle condizioni dermatologiche che si chiamano tricomicosi palmellina, in cui noi dobbiamo in prima istanza intervenire con una crema antibiotica. Allora, moltissimi ascoltatori che ci stanno raccontando le problematiche che hanno con il sudore, c'è chi suda solo molto sulla schiena. L'ascoltatrice che vorrebbe intervenire è Cristina da Vicenza, non ce la facciamo, glielo leggo il messaggio che avrebbe voluto darci: non suda sul corpo, suda molto in viso, se ne vergogna, sta sempre in casa. 10 secondi, dottoressa Sparavigni, che cosa le suggeriamo? Di vedere un dermatologo per una terapia appropriata, perché fortunatamente al giorno d'oggi possiamo intervenire anche noi con delle applicazioni locali o addirittura con delle punturine. Grazie ad Adele Sparavigna, buona giornata, grazie a tutti per averci ascoltato. Noi con Nicoletta, con Cuore Denari, torniamo lunedì. A tutti buon weekend.